Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Una puntata dagli effetti speciali, quella odierna che ci porterà, pensate, fino a Singapore. Vi racconteremo la storia di uno dei giovani italiani più promettenti all'interno dell'industria dell'animazione cinematografica mondiale. Ora lavora nel sud-est asiatico, ma solo temporaneamente, dopo aver girato mezzo mondo. Un talento strappato all'Italia che non è riuscita a valorizzarlo quando da studente provò a farsi largo nel mondo della computer grafica. Ma non c'era proprio paragone tra le condizioni di lavoro all'estero e quelle ben più misere offerte dal bel paese. Penso che ci sia una paura, soprattutto a livello di salari, hanno magari paura che costo troppo, oppure c'è una paura che porti via del lavoro ad altre persone. Non te lo so dire, c'è di sicuro amarezza. Xavier Bernasconi, 33 anni, è uno dei più quotati supervisori delle luci nei film di animazione internazionali. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. La realtà dei giovani italiani all'estero è un fenomeno di grande rilievo e in continua espansione, così il presidente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, Giuseppe Firarello. Storie di cervelli espatriati ora. Si chiama Cristina Alberini, è una scienziata in fuga, lavora al Mount Sinai School of Medicine di New York, ha scoperto la proteina che potenzia la memoria, rafforzando la formazione dei ricordi. La rivista Nature le ha dedicato la prima pagina. E due italiani under 40, l'ingegnere Maurizio Porfiri e la fisica Chiara Daraio, sono finiti nella lista dei Brilliant 10, i 10 giovani scienziati più promettenti a lavoro negli Stati Uniti. Porfiri, 34 anni, è assistant professor di ingegneria meccanica alla New York University. La Daraio, 32 anni, è docente di fisica applicata al California Institute of Technology. In Italia non avrei mai le opportunità che mi offrono qui, soprattutto alla mia età, ha affermato. Denuncia l'associazione dei dottori di ricerca, tra i primi effetti della riforma Gelmini c'è il blocco del rinnovo degli assegni di ricerca e segnalano un caso al CNR di una ricercatrice ora disoccupata intenzionata ad andare all'estero. Raccogliere le migliori idee per rilanciare l'innovazione, fare ricerca a imprese e riscrivere il futuro è l'obiettivo dell'iniziativa La ricerca dei nuovi 1000 di Telecom Italia e del Comitato Italia 150. Le nuove generazioni sono il futuro, su di loro occorre investire, così l'AD di Telecom Italia Franco Bernabei. Ed è approdata a Montecitorio una proposta di legge bipartisan per favorire l'imprenditoria e l'occupazione giovanile e femminile. I beneficiari sono le nuove microimprese giovani e femminili avviate da uomini di età inferiore ai 38 anni o dalle donne. Calano però del 16% nel 2011 le politiche a favore dei giovani. Lo rileva la Ragioneria Generale dello Stato nel documento sulla spesa delle amministrazioni centrali. Meno risorse anche per istruzione, ricerca e innovazione. Crescono le spese destinate alle politiche per il lavoro. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un economista alla International Labour Organization di Ginevra in Svizzera, scadenza per i CV 6 marzo, info su ilo.org. Un brand marketing manager a Fair Trade Labeling Organization International di Bonn in Germania, scadenza per i CV 3 aprile, info su fairtrade.net. E infine uno scienziato, group leader senior alla Foundation for Liver Research di Londra, scadenza per i CV 7 marzo, info su liver-research.org.uk. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta lontano. Per la prima volta sbarchiamo a Singapore, profondo sud-est asiatico. Nome: Xavier. Cognome: Bernasconi. Età: 33 anni. Città di origine: Qua Solpiano. Studi: liceo scientifico, un anno e mezzo di università. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2000. Per andare dove? Stoccolma. Perché? Più soldi, migliori progetti. Quale lavoro svolge attualmente? Sono supervisore alle luci in Lucasfilm. Dove? Singapore. Tornerai? Se me lo chiedono. Shine for Singapore, this is our song, reach out for the sky. China for Singapore è di Mirza, canzone che celebra il quarto centro finanziario mondiale da 5 milioni di abitanti su appena 700 km quadrati. Una storia come poche ve ne abbiamo raccontate oggi a Giovani Talenti. La storia di un giovane italiano, una vera promessa a livello mondiale nel settore dei film di animazione, impegnato ora ad aiutare tanti altri talenti attivi nel suo stesso settore a trovare lavoro all'estero. Tra poco vi spiegheremo tutto, prima però un passo indietro. A tuttora penso di aver ricevuto 3 o 4 offerte di lavoro all'anno da società di livello livello internazionale da ogni parte del mondo. Dall'Italia nessuna società mi ha mai offerto lavoro, nessuna in più di 10 anni. Così scrivi Xavier a giovanitalenti@radio24.it. Beh, allora la domanda è: sei troppo bravo? I tuoi successi professionali all'estero fanno paura? In un paese dove la competizione è azzerata e nessuno si mette più in discussione? Non penso assolutamente di essere troppo bravo, anzi forse per quello che non mi chiedono di tornare. Penso che ci sia una paura, soprattutto a livello di salari, hanno magari paura che costo troppo, oppure c'è una paura che porti via del lavoro ad altre persone. Non te lo so dire, c'è di sicuro amarezza. Quello l'abbiamo capito, ahi noi. Partiamo dall'inizio della tua storia. La scintilla d'amore con la computer grafica scatta fin dal liceo, quando, e forse il tuo destino all'estero era già scritto, due ragazzi ti coinvolgono nella realizzazione di un film. Di quale paese era il committente e di cosa si trattava? Il primo lavoro a cui ho partecipato era per la televisione svizzera italiana. Era la vita di un santo, San Carlo Borromeo. Questo è stato il mio primo lavoro, il primo di tanti. La paga era minima o addirittura nulla, ricordi, però con un po' di amarezza, ma dopo tutto eri solo uno studente liceale. Tu comunque poi trovi la tua strada, ottieni un altro lavoro a Como, poi un altro ancora a Milano, esattamente per fare cose e a quali condizioni contrattuali? Era sempre computer grafica, quindi fare delle sigle televisive, delle porzioni di pubblicità, e i contratti erano sempre saltuari, quindi bollettino di pagamento e ritenuta da conto. Nel frattempo ti iscrivi all'università, in quale facoltà? Matematica, Celoria a Milano. Perché? Perché pensavo avessi bisogno di un pezzo di carta per riuscire ad avere un contratto decente. E quale bilancio tracci ora a distanza di anni di quell'esperienza universitaria? Che è solo in Italia dove hai bisogno del pezzo di carta per avere un contratto, e forse nemmeno quello, diciamo così. Diciamo così. E a chi vi dice: giovani presuntuosi, andate a fare lavori umili, accettateli tutti? Vogliamo ricordare cosa facevi da studente universitario nei McDonald's per arrotondare quei miseri stipendi che ti arrivavano dagli altri lavori? Beh, diciamo che facevo tante cose. Comunque ero in cucina a preparare gli hamburger, pulivo la toiletta alla fine alle 2 di notte o lavavo i pavimenti. Io te l'ho chiesto perché così facciamo vedere come anche un talento, una persona che poi si è affermata nel suo lavoro come sei tu, è partito dal basso. Qualcuno a volte esagera, secondo me, attaccando i giovani di oggi. Ora però arriva la sorpresa. Le esperienze italiane, pur sottopagate, ti fanno conoscere all'estero. Un'importante società svedese, produttrice di video per Madonna e gli U2, ti cerca, ti paga un aereo e un hotel per un colloquio a Stoccolma. E cosa ti offre in termini di contratto e benefits al termine della selezione? Mi offre uno stipendio che era 3 o 4 volte superiore a quello che prendevo in Italia, mi offre una casa pagata in centro a Stoccolma, mi offre la colazione pagata al mattino, mi offre tante cose. E la decisione a quel punto era se lasciare un paese dove dovevo fare, parole tue, 2 lavori, oppure andare a Stoccolma con un solo lavoro, uno stipendio ben superiore, eccetera. Avevi solo 20 anni. Non è un esempio lampante di un paese cieco di fronte al talento che non riesce o non vuole vederlo facendoselo scappare? Diciamo che secondo me è una mancanza cronica italiana. Non c'è un'industria che possa supportare il talento. Questo è interessante, spiegalo meglio. Nel senso che magari anche il datore di lavoro vorrebbe tenermi lì, vorrebbe pagarmi, ma purtroppo perché i budget sono limitati, perché non si vuole investire, perché magari anche le tasse sono troppo alte, è evidente che poi le società italiane facciano fatica. Tra l'altro ricordiamo che il tuo datore di lavoro milanese poi ti cercherà a distanza di un mese dal tuo espatrio in Svezia, offrendoti le stesse condizioni svedesi, ma ahimè too little too late, verrebbe da dire. Allora, dall'esperienza svedese inizi come perfetto nomade del terzo millennio a girare il mondo. In breve le tappe, raccontaci cosa vai a fare. Spagna. Ingegnere software. Danimarca. Sempre ingegnere software e computer grafica. E poi il grande salto a Australia, dove collabori al film Happy Feet, vincitore addirittura di un Oscar, no? Sì, come miglior film d'animazione. E tu in quale ruolo hai contribuito? Io ero a capo del dipartimento di luci dal punto di vista tecnico. Tu sei modesto di natura, però non era esattamente un ruolo marginale, no? Diciamo che ho fatto tanto quanto tutti gli altri, okay. Comunque ho partecipato parecchio, sì, diciamo così. Collabori anche per il film 300 e sull'onda di questi continui successi finisci nel mirino di Pixar e Disney. Gnomeo and Juliet è stato uno dei tuoi ultimi lavori, che ha avuto Elton John come produttore esecutivo. Finisci così a Toronto dopo aver lavorato pure a Londra, prima di trasferirti in quella che al momento è la tua ultima tappa, Singapore. Per quale progetto? Non posso dire molto, però un nuovo film d'animazione di Lucasfilm. Il produttore di Guerre Stellari? Esattamente. Xavier, ci spieghi un po' meglio cos'è il tuo lavoro? Cioè, lavori supervisore delle luci, proprio per farlo capire a tutti. Diciamo che in un film dal vivo, con attori in carne e ossa, il direttore della fotografia si occupa di decidere l'illuminazione sulla scena e di decidere l'inquadratura. Nei film d'animazione, perché sono molto lunghi, questa figura viene divisa in due. C'è quello che è il layout supervisor, che si occupa delle camere, e c'è il lighting supervisor o supervisore delle luci, che si occupa ed è responsabile dell'illuminazione dell'intero film. L'aver vinto l'Oscar è stato l'apice della carriera sino ad oggi, ma se anche non fosse successo, il rispetto e la considerazione con la quale i miei datori di lavoro mi hanno sempre trattato non trovano paragone con le condizioni di lavoro alle quali ero stato abituato in Italia. La tua, Xavier, è una denuncia che lascia pochi margini di discussione. Perché professionisti di talento come te in patria non trovano rispetto, gratificazione e considerazione? Secondo me è un problema di mentalità, è un problema di fondi. Quando sei giovane la gente non ti considera, anche se sei estremamente talentuoso. Non dico che sia stato il mio caso, ma in generale devi essere vecchio per essere considerato, devi essere un paese, avere i 20 anni, 30 anni, un paese gerontocratico nell'anima, purtroppo. Da un po' di tempo stai addirittura aiutando altri artisti a trovare lavoro all'estero attraverso il portale renderglobal.org. Scappano i tuoi colleghi dall'Italia e perché? Cercano semplicemente delle occasioni migliori, cercano di lavorare a dei progetti migliori, cercano di essere pagati, in tempo, come loro lavorano tutti i giorni, vorrebbero essere pagati tutti i mesi. Diciamo anche in breve che tu hai collaborazioni universitarie e sei a tutti gli effetti un cittadino del mondo, hai viaggiato e risieduto dal Canada all'Australia passando dall'Europa. Ci spieghi in breve questa condizione di cittadino del mondo, quali vantaggi, quali rinunce implica e qual è forse anche il paese migliore dove emigrare? I vantaggi sono quelli di essere al cospetto di un numero considerevole di culture. Ti rendi conto di quanto sia piccolo la dimensione in cui uno rimane, se rimane in Italia o se rimane nel proprio paese. Gli svantaggi sono ovviamente lasciare la famiglia, non poter essere partecipe di tante situazioni. Paese migliore? Non te lo so dire, sono tutti molto belli, hanno tutti i loro pregi, i loro difetti. Xavier, domanda diritto, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? A volte mi vergogno, sinceramente, non degli italiani, mi vergogno di quello che sta succedendo in Italia. C'è molta rassegnazione da tutti quelli che lasciano il nostro paese, purtroppo. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Xavier Bernasconi, 33enne mago della computer grafica e supervisore delle luci in importanti film di animazione internazionali. Xavier attualmente vive a Singapore, dove è giunto dopo aver vissuto in mezzo mondo, partito dalla Lombardia, abbandonando l'università e lasciando i primi lavori sui film di animazione, tra l'altro sottopagati. Xavier trova l'occasione della vita accettando un contratto in Svezia, dal quale si dipana una straordinaria carriera all'interno della cinematografia d'animazione, che lo porta addirittura a vincere un Oscar con Happy Feet. In questi anni ha vissuto in Svezia, Spagna, Danimarca, Australia, Canada e Singapore, accettando contratti di grande prestigio. Offerte dall'Italia in 11 anni, zero. Ci raggiunge ora in linea Marco Savini, fondatore di Big Rock, una delle principali scuole di computer grafica d'Italia. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio a tutti. Marco, ci spieghi per cominciare l'avventura di Big Rock? È nata come la scuola che avrei voluto frequentare io e che non c'era, e quindi ho fatto prima a farla piuttosto che aspettare che qualcuno lo facesse in Italia. Voi insegnate computer grafica ai giovani, allora la domanda è: c'è spazio per questi giovani affinché si facciano strada nel nostro paese? Possiamo insomma allevare tanti Xavier e fornire loro opportunità importanti senza obbligarli ad andare in Svezia per cominciare la loro avventura professionale? Attualmente in Italia è dura, tanto per la mentalità, tanto per chi come me decide di fare una scuola e tenerla in Italia e non andare all'estero, perché la mentalità italiana deve cambiare in qualche modo. Però possiamo comunque allevare tanti Xavier e per ora mandarli all'estero. Poi sono sicuro che un po' di Italia resta, quindi prima o poi ci ritroveremo qui da qualche parte in Italia. Lo speriamo tanto. Marco, attraverso la computer grafica stai mettendo in pista tutta una serie di progetti legati all'innovazione. Hai fondato Big Code, avviato Massane e altri progetti ancora. Ma l'Italia è un paese per talenti innovativi che guardano all'economia del futuro, oppure viaggia ancora troppo a traino di settori maturi e tradizionali dell'economia in assenza di una politica industriale che guardi al terzo millennio e non al passato? Le cose stanno cambiando. Molti giovani, prima l'unica soluzione per i talentuosi, per gli Xavier, era andare all'estero. Adesso le nuove generazioni vogliono cambiare le cose, per cui si stanno muovendo. In questa fase intermedia chi vuole fare le cose in fretta va all'estero, e non posso che dargli ragione, e chi invece vuole cambiare si ferma qui e con molta fatica cerca di cambiare le cose. Ma l'Italia è veramente da cambiare, perché all'estero le stesse cose si fanno con meno fatica, non si fanno facilmente nemmeno lì, però i mezzi sono diversi. Hai qualche idea per cambiare? Deve cambiare la mentalità società italiana, deve esserci più supporto per le scuole, deve diventare un lavoro la computer grafica, non deve essere mio cugino col Commodore 64 in cantina a fa questo render comunque sottopagato, perché un artista della computer grafica è al pari di un ingegnere, di un avvocato, di un dottore. Invece quello che si pensa in Italia è che un artista è una persona che vive di poco. Il consiglio che posso dare è semplicemente quello di pensarla come un lavoro, come fanno già tutti gli altri paesi in cui l'azienda del cinema è un'azienda vera e propria, non è una cosa amatoriale. Io credo che l'Italia sarà un paese fantastico perché i nostri talenti all'estero fanno scintille. Sarebbe bello che prima o poi le facessero anche qui. Se solo potessero tornare e mettere a frutto qui quello che hanno imparato fuori, ma questo in tutti i settori. Un'ultima domanda, Marco: voi portate i vostri studenti a fare viaggi studio in California per far conoscere loro le realtà più all'avanguardia, no? E in questi anni quanti di loro avete visto emigrare e soprattutto dove? Questo è importante. Li abbiamo visti un po' in tutto il mondo, molti dei nostri ragazzi, diciamo il 20% a fine master emigra, e attualmente sono in Australia, sono in Inghilterra, sono in America, sono in Canada, sono un po' dappertutto. Noi rimaniamo in contatto con tutti loro, sul nostro sito c'è una sezione pro che ne dimostra il contatto, e questi ragazzi poi chiamano a loro volta altri corsisti nelle aziende per poterli fare entrare. Dimostra che loro all'estero fanno delle cose pazzesche, però guardano sempre l'Italia dicendo: ok, e quando è che toccherà l'Italia? Grazie a Marco Savini, fondatore di Big Rock. E domanda finale per Xavier: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita da un espatrio? Di non aver paura, che non ti morde nessuno, di cercare di essere coraggioso e di fare nuove esperienze, che c'è solo da guadagnare. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi apriamo la finestra mensile su Italians Online, la più grande comunità virtuale e nonna di espatriati italiani. Ci trasferiamo in Germania. Silvio Cisamolo, cofondatore di Yol Colonia. Il gruppo Yol Colonia nasce ufficialmente a aprile dell'anno scorso, partendo dal niente, avendo ben pochi contatti, forse anche poche idee ma ben confuse. Però si è evoluto molto molto bene, il gruppo è cresciuto, stiamo rasentando la soglia dei 100 iscritti, stiamo crescendo, siamo cresciuti, è un gruppo molto bello, molto sano, le persone che ne fanno parte sono persone che si incontrano, che collaborano. Fotografiamo questa emigrazione italiana a Colonia. Quanti sono i giovani espatriati, professionisti che vengono in questa città tedesca e anche perché? Per fare una fotografia del genere bisognerebbe fare un raffronto a quello che era la situazione degli italiani a Colonia e in Germania, diciamo 30 anni fa. Indubbiamente il panorama è radicalmente cambiato. 30 anni fa, 40 anni fa, gli stranieri in Germania, che come si chiamano qui Gastarbeiter, erano persone che venivano in Germania alla ricerca di fortuna. Oggigiorno è cambiato il profilo, è aumentato il numero di professionisti, è aumentato il numero di persone che con già un titolo di studio, sia essa laurea o diploma di laurea o quello che sia, si presentano qui sul mercato del lavoro tedesco già con una base culturale superiore e con delle aspettative anche decisamente maggiori. E perché lasciano l'Italia? Questa è una bella domanda su cui si potrebbe discutere veramente a lungo. Ce ne sono alcuni appunto che ho conosciuto che sono qui perché si sono trasferiti, sono stati trasferiti dall'azienda che stava in Italia qui in Germania. Altri che sono venuti per propria scelta. A detta di molti, le due correnti di pensiero principali sono che da una parte sì, stiamo qui, però in Italia si sta molto meglio perché la nostra Italia, la mamma, la cucina e tutte queste storie qui. Però quando ci si riesce un pochettino a parlare più sinceramente, si riesce a sentire, a notare che chi si è trasferito qui in Germania qui si trova bene, perché malgrado tutte quelle che possono essere le difficoltà di lingua, di ambientamento e così via, il livello e la qualità della vita è spesso migliore che in Italia. Per chiudere l'attività invece di Yol Colonia, su cosa vi concentrate? Ci concentriamo appunto a incontrarci, a costruire, a lavorare insieme, a fare le cose insieme. Di conseguenza organizziamo circa settimanalmente degli incontri, a volte chiamiamoli culturali, tipo teatro, tipo cinema, tipo concerti, tipo anche appunto le visite all'Istituto di Cultura, e poi organizziamo delle altre serate un po' più conviviali e ludiche con birrette, cene e risate varie. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansonline.net, sezione Colonia.